di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sta andando a vincere la seconda gara sulle prime tre di questa stagione, mentre la grafica ci ricorda che i due piloti sono under investigation, sono le ultime curve ormai per un Rossi straordinario in una rimonta su Marquez, che ha tenuto, devo dire, l'osso in bocca fino al penultimo giro, quando questo contatto con Rossi ha fatto sì che saltasse via. Rossi c'è e va a vincere. Grazie, Rossi c'è, grazie. Rossi c'è. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. Poi quando mi sono messo davanti ho visto che avevo 4 secondi e 2, ho detto è difficile, però ci devo provare, perché lui sicuro nella seconda metà di gara fa fatica, allora piano piano. Poi ho cominciato sempre a girare un po' più forte, la moto andava sempre meglio e poi cominciavo a sentire l'odore, no? L'odore. Abbiamo detto. È stato bello, perché vedere Marc Marquez, no, con la Honda ufficiale là in Argentina, e te che lo vai a prendere e dici forse lo prendo proprio all'ultimo giro, da proprio una sensazione che dà gusto. Maradona è stato l'eroe sportivo per quelli della nostra età e anche per quelli più vecchi, no? E quindi per tutti i napoletani, sì. Soprattutto, però per tutto il mondo, no? È stato sempre uno che è riuscito a fare la differenza. E ce l'avevo già pronta anche l'anno scorso, ma non ho fatto il podio. Allora ho detto quest'anno se vinco la metto, e l'ho messa. Ci siamo toccati, io l'ho superato in frenata e lui, Marquez è uno che gioca sempre tutto per tutto, all in, e subito nella prima curva mi ha dato una sportellata, boom, così. Poi io ho accelerato e dopo qualche metro ho sentito che mi ha toccato un'altra volta, ma non avevo capito che era caduto, e mi dispiace molto perché sarebbe stata una bella lotta e spero che non si sia fatto male, però penso che abbia sbagliato lui. Lo zapping ieri sera è durato pochissimo, tra un derbino tra la nona e la decima della classifica di Serie A, tipo quello di Genova o di Verona si potrebbe dire, e quello che è successo su quella pista argentina. È durato pochissimo lo zapping, poi al derby si è tornati e poi ne parleremo. Alessandro Narcotulli, Daniele Bonavici, redazione, Filippo Aureggi in regia. Voglio togliermi uno sfizio a Radio 24. Saluto Paolo Beltramo, ciao Paolo. Ciao, buongiorno a tutti, ciao ciao. E come hai fatto, credo, 1276 volte in pista, vorrei una tua domanda a Graziano Rossi, che è collegato con noi, che saluto. Ciao Graziano. Ciao Grazia. Ciao Grazia. E niente, ciao, è vero, ciao. È il risultato di quella passione folle che gli hai messo tu, che è cresciuto con quella cosa lì. Secondo me riuscire a fare quello che fa a 36 anni ancora così, cioè è l'infinito, non so come dire, è perché ti piace, si diverte, e quella roba lì l'hai trasmessa tu. Ma come fa a non piacerti una cosa come quella di ieri? Infatti. Oppure come quella di 2 settimane fa, oppure come quella di un mese fa, come fa una persona a non piacergli più? È vero, però come fa anche una persona a far finta che il tempo non passi, ecco, a essere sempre motivato allo stesso modo, di più, a trovare le formule per battere gli anni che passano, perché si allena di più, gira di più, cioè cerca poi con la razionalità il modo per riuscire a coltivare questo sogno, questa passione. Lì il bello, no? È lì la forza. Io ti posso dire che lui lavora molto, E chiaramente lavorare molto dipende dalla passione che hai, e credo che fino a che il risultato emotivo sono vittorie come questa, non ti possa certo lasciare né un po' di passione, e quindi vai avanti ancora. Poi lo dirà il fisico, lo dirà il tempo fino a quando, però lui giustamente va avanti ancora spedito, ancora piuttosto veloce ancora. Che direi meraviglia. Che è abbastanza veloce. Paolo, sì, ha fatto, sì. Paolo, è meraviglioso, mi sto divertendo come un pazzo. Oltre, vi prego, state con me, Paolo Beltramo e Graziano Rossi, mi sembra di essere a bordo pista e io sto qui, traffico, poi torniamo. Paolo Beltramo, Graziano Rossi, voi 800240024, numero verde. Ho visto Maradona, oh mamma, innamorato son. Tutti convocati. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Tutti convocati. Sì, strepitoso, weekend difficile, ma alla fine lavoriamo davvero bene, la moto è favolosa e siamo sempre davanti, 3 gare su 3, è una bella sensazione, e soprattutto sono riuscito a stare vicino a Valentino, stringendo i denti per tutta la gara, quasi tutta la gara. Siamo arrivati a pochissimo da Valentino con le gomme un po' più morbide, riuscivo a guidare veloce senza consumare troppo, abbiamo fatto un gran lavoro, la moto è fantastica, davvero grazie. Questo era Dovizioso, ieri secondo, all'ultimo metro è sfumato il podio, il secondo podio di stagione tutto italiano, perché Crash lo ha passato Iannone, però se l'è meritato perché ha fatto una gran gara. Sempre con noi Paolo Beltramo, adesso stiamo recuperando di nuovo Graziano Rossi. Paolo, c'è anche Renzi che dice è pazzesco, dopo l'altro Gran Premio lo chiamai per dicendogli mamma mia che cosa strepitosa hai fatto, non finisce mai di stupirci, credo sia una cosa straordinaria, questo lo dice il Premier. In Argentina dicono è come Maradona dell'86. È tornato Graziano Rossi. Lo chiedo a tutte e due, Paolo Beltramo e Graziano Rossi. Credo forse si insista addirittura troppo sull'età di Valentino. Adesso stiamo vedendo due piloti pazzeschi che, a prescindere dall'età, se ne stanno dando di santa ragione. E aggiungo che il più giovane dei due, cioè il bimbo, forse non è abituato alla battaglia, anche perché magari non ne ha mai avuto bisogno fin qui nei primi 2 anni. Graziano. Io credo che il confronto, quando debba succedere, fra Valentino e Marquez, e quest'anno potrebbe succedere alcune volte, secondo me, sia molto bello, meraviglioso, perché nessuno dei due ha nessuna intenzione di perdere senza provarci. Sì, no? Sì. Ieri Marquez ha sbagliato perché ci ha provato, e sarebbe stata la stessa cosa se dietro ci fosse stato Valentino, ci avrebbe provato anche lui, perché loro due sono due che comunque ci proveranno sempre. Ecco. Questo sarà un che di meraviglioso di questo campionato. Ecco. Sì, immagino Paolo Beltramo con la colina in bocca. Ti chiedo un'ultima domanda, Graziano Rossi, poi vi saluto e vi ringrazio, siete meravigliosi. Io volevo innanzitutto dare un consiglio a quelli fermi in autostrada a Borgo Panigale, se riescono facciano un salto in Ducati, che c'è un museo bellissimo proprio a Borgo Panigale. A parte questo, Graziano, tu e la Steffi avete fatto un miracolo, e ti posso dire solo grazie, anche perché Graziano, io me lo ricordo, nell'81 d'inverno è stato il primo in Europa che andava a fare sulla spiaggia di Pesaro il dirt, cioè aveva una moto da cross con una ruota da cross davanti e una slick al posteriore per fare i traversi, per acquisire il controllo della moto in situazioni critiche, e insomma viene da lì questa passione, questa voglia e questa, così, per il momento senza fine di Valentino, perché è proprio il bello, il divertimento. E Marquez è un degnissimo rivale, forse il più degno che abbia avuto fino qua, perché appunto non molla mai, ci prova a costo di sbagliare, e dirò di più, Marquez ne ha già avuto bisogno di lottare, ha dimostrato di essere capace in Moto2, in 125, quindi sì, sì. Sarà divertente, perché Vale è un altro che insomma e sa fare queste cose. Graziano, partendo dal dirt track sulla spiaggia. Sono andato dai bagnini il mese scorso a sentire se potevo riandarci giù nella spiaggia fra Pesaro e Fano, ma mi hanno detto che adesso è assolutamente proibito. Ecco, e allora fallo a Renche, che però è quello lì il segreto. Tu hai la mia età, facciamo finta di non dirla, però insomma ne abbiamo un bel po' più di Valentino e sei ancora lì a fare queste cose, insomma, a chiedere il permesso se puoi andare a fare dei traversi in spiaggia. Graziano, ti voglio bene, ti mando un abbraccione, perché è questo qui il segreto. Se c'è un segreto è questo qui, poi c'è il talento, c'è la volontà, c'è tutto, ma il segreto vero è quest'amore, questa passione per la moto, per una cosa così bella, che hai ragione, non si capisce come qualcuno non riesca a considerarla una delle cose più belle del mondo. Grazie Paolo. Un bacio. Graziano, facciamo petizione per riaprire quella spiaggia alle moto almeno d'inverno. Santi Dio. Grazie. Graziano Rossi e Paolo Beltramo. Adesso traghettiamo da un'altra parte. Non Maradona, no. Maradona l'abbiamo visto ieri sera sul podio in Argentina con un numero 10, che vuol dire magari anche un'altra cosa, un altro sogno. Sapete quanti titoli mondiali ha vinto Rossi? Ebbene, uno in meno. Comunque, voci di derby, Mancini e poi Inzaghi, o Inzaghi poi Mancini, non ricordo. No, io penso che sia rigore netto. Netto? Sì, sì. Anche se la palla è così vicina, non... No, perché ho visto che domenica scorsa l'arbitro ha visto benissimo sia il fallo di mano da un metro su un rimpallo di Guarin, e ha visto benissimo su un rigore a favore del Verona, quindi questo dico che... Qui bisogna capire, perché la disomogeneità del giudizio, insomma. No, le riunioni che fanno lunedì è meglio non andarci, stare a casa e riposarsi, perché non servono a niente. Sono molto ravvicinati su un contrasto, penso che sia un mano involontario. Poi è vero che ne abbiamo visti fischiare anche di peggiori, però qui insomma Antonelli non vuole assolutamente colpire la palla con la mano, perché fa un contrasto a 5 cm con Hernanes, e per cui insomma penso che era un episodio dubbio, però non sarebbero da fischiare questi rigori. È vero che sono stati fischiati anche dei rigori peggiori. 800240024 è il numero verde. Saluto Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Come va? Molto bene, molto bene. Senti, ieri tutto meraviglioso, stadio 75.000, coreografie da altri tempi. Mancata solo la partita. Sì, mancava la partita. Mancava la partita e mi ha fatto pensare a Beppe Viola, no? Quando tanti anni fa fece quella cosa di mandare un derby di qualche anno prima perché era stato troppo brutto, anche se poi in realtà poi ho twittato questa cosa, un po' di gente mi ha detto ma sì, Banti, ma la partita era chiaramente una provocazione, no? E una comparazione con quello che Milano fortunatamente ci ha offerto negli anni scorsi e che invece di questi tempi fa fatica a offrirci. Poi chiaro che entrando nelle pieghe della partita Banti ha commesso degli errori, l'Inter ha giocato meglio, avrebbe potuto sicuramente portarla a casa, esce sicuramente meglio da questa sfida rispetto al Milan, questo non ci sono dubbi. È un pareggio che sta stretto a Mancini e sta largo a Inzaghi, anche se Inzaghi va in giro a dire che è contento, insomma, però sì. Le dichiarazioni di Galliani non mi sono sembrate quelle che ho letto in linea, no, ma secondo me Inzaghi così soddisfacenti, Così no, ma Zarri sbagliava secondo me sulla comunicazione a suo tempo, perché a campare le scuse, se posso permettere un piccolo consiglio non richiesto, Inzaghi è questo qui, che secondo me bisogna anche capire dove si è. Lui ha pienamente il diritto a costruirsi una carriera che io gli auguro luminosa, e secondo me magari diventerà un bravissimo allenatore, c'è tutte le possibilità, perché è una persona molto intelligente, per cui non ci sono dubbi. Però insomma, per come si è messa la stagione, insomma, io posso capire che in cuor suo il fatto di non aver perso la partita ieri sera possa anche essere un risultato che gli leva dei problemi, sì. Però bisogna capire lo stato d'animo del tifoso, e questi tifosi di Inter e Milan sono tifosi abituati negli ultimi anni a vincere, a far bene, e quindi da questo punto di vista secondo me un po' più di realismo potrebbe essere sano, insomma, perché è chiaro che lui si sta costruendo una carriera e ha pienamente il diritto di sbagliare, perché come allenatore è giovane, veramente io guarda, proprio con tutto il cuore gli auguro solo il meglio. Però poi ci sono delle cose che siccome lui si trova ad allenare il Milan, fanno un po' effetto, no? Sì, certo, della comunicazione. Certo. Senti, stamattina Dario Ricci ha incrociato Massaro. Sentiamo una battuta di quello che ha detto. Bip bip. Sì, non è stato un derby esaltante, ma purtroppo in questo momento le due squadre milanesi stanno attraversando un momento un po' di crisi, sperando di in queste ultime partite di ritrovare quella verve giusta per almeno centrare un posto in Europa, perché non posso pensare che le due milanesi siano fuori dalle competizioni europee. Meglio cominciare a rassegnarsi all'idea, caro Massaro, direi. Sì, beh, il pareggio di ieri da questo punto di vista è il risultato peggiore. Certo. Ma alla fine ti dico pure che mi rendo conto che è un modo di parlare provinciale, ma per due grandi società che nella storia hanno vinto tanto e che devono tornare rapidamente in corsa, beh, insomma, da un certo punto di vista forse l'Europa League, non ti dico che è quasi una scocciatura, io sai che sono un fan dell'Europa League, sì, quindi, ma lo siamo, per carità, però ci sono, va detto, due o tre esempi in tempi recenti di società che sono riuscite a fare miracoli partendo proprio dal fatto che non avevano le coppe. Penso alla prima Juve di Antonio Conte, penso alla Roma di Garcia che l'anno scorso ha fatto una stagione eccezionale, e forse c'entra anche il fatto che non c'erano le coppe, alla luce invece del rendimento di quest'anno. Quindi il Milan non se le ha, ma comunque secondo me insomma, sinceramente è chiaro che sarebbe meglio arrivarci, anche perché sta diventando più ricca anche come competizione. Però se non ci si riesce ad arrivare, bisognerà riuscire a trasformare questa cosa in un'opportunità per poter fare invece meglio. Sì. Con meno impegni, quindi da questo punto di vista francamente insomma non è tanto quello il punto, cioè non è tanto non, quello non il punto. Anche il punto è fare le cose arrivata, bene quest'estate, costruire un progetto e capire chiaro. Come ha fatto la Juve 4 anni fa, la Juve, senti, dopo 2 settimi posti. Se anche quelli davanti si suicidano sportivamente e arrivi per miracolo in Europa League, sia l'Inter o sia il Milan, non è che così fai diventare la stagione una stagione accettabile. Può far bene al ranking, può far bene alle carte, però se non ci riesci, allora devi lavorare sapendo che l'anno prossimo avrai il piccolo vantaggio di avere una competizione in meno e quindi più tempo per poter preparare le partite. Ma ci fermiamo un attimo per la borsa, torniamo subito. Merita un'altra chance Super Pippo dopo quest'annata? Beh, queste sono cose che deve decidere il presidente, Barbara e Galliani. Sicuramente come prima esperienza, ovviamente penso che abbia fatto delle cose buone e degli errori, ma questo è dettato anche un pochino dalla prima esperienza in Serie A. Io da tifoso posso dire diamogli un'altra chance, ma ovviamente non sono io a decidere. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Vittorio Roma, primo ascoltatore di oggi, 800 24 00 24, parlo naturalmente collegato. Vittorio, buongiorno. Buongiorno, volevo condividere con voi delle riflessioni relativamente al Milan. La prima, acquisti indispensabili per il modulo di Inzaghi, Destro e Cerci e Trump in panchina, nonostante Destro fosse fatto male. Mi risulta strano sapere che tecnici preparati non abbiano visto che Suso è la fotocopia di Cerci. Difficilmente si vede giocare uno schema d'attacco da parte di giocatori che sono rapidi e veloci. Addirittura Menez sembra un bimbo dei Salesiani che deve scartare tutti prima di tirare in porta. Io credo con molta sincerità che ci siano veramente molte confusioni tecniche in questo Milan e che la ricostruzione non possa prescindere da un allenatore che abbia delle idee chiare. Vi ringrazio e buon pomeriggio. Grazie a lei. Sì, non possono prescindere neanche dalla chiarezza che ci dovrà essere sul fronte societario. Continuo a insistere su questo punto. Del resto, Pier, non ha tutti i torti l'ascoltatore, perché no. A me non sono piaciute le scelte iniziali di Inzaghi, poi ha messo Destro tardi, ha messo Cerci quasi alla fine, nulla è cambiato. No, ma Inzaghi, mi ripeto, Inzaghi ha tutto il diritto e il tempo per poter fare le sue esperienze, certo, e anche i suoi errori, come normale che sia, perché come si dice a Roma, nessuno nasce imparato, no? Ecco, si dice così. Quindi è ovvio che deve diventare inevitabilmente, l'esperienza lo aiuterà, In questa stagione ci sono state delle cose interessanti, ma anche parecchi errori, e probabilmente questo tipo di soluzione non è la più efficace, non è la più efficace, perché invece magari Inzaghi avrebbe bisogno di un progetto tranquillo, emergente, di una società media che gli dà la possibilità di poter esprimere il suo calcio. Poi io non lo so, non so dirti se, cioè, noi lo vediamo da fuori, lo conosciamo, grande giocatore, persona per bene, e quindi voglio dire, uno con grande carisma, uno pensa, no, che possa far bene, però sono valutazioni che facciamo dall'esterno, da giornalisti, non ci siamo mai allenati con lui, non abbiamo mai visto. E io in questa stagione ho visto tante volte delle situazioni confuse, ho visto anche degli errori abbastanza banali, errori proprio, secondo me, di concetto e di sintonia con la filosofia berlusconiana. Sì. Sentiamo come la pensa lo zio, Beppe Bergomi. Ciao Beppe, sì. ciao Carlo, ciao Pier. Grazie. Ciao. Cosa ne pensi? La pensi come Pardo? Sì, vorrei essere anche un po' più deciso, ma ti ho sentito a Sky. No, perché lui ieri ha detto una frase che non mi è piaciuta, quando dice non sono queste le partite, invece sono proprio queste dove tu devi dare un segnale, dove devi far capire alcune cose. E quante volte ti capiterà di incontrare l'Inter dove a centrocampo ha un ragazzo del 96 debuttante, un ragazzo del 94 Medel, e tu in pratica giochi senza punte, e l'Inter non è che ha fatto molto, ma ha avuto più coraggio. Cioè quello che Mancini ha fatto tanti errori, l'ha detto lui stesso che ha avuto, si meriterebbe un voto negativo, però almeno la squadra ha coraggio, cerca di fare quello che il proprio allenatore insegna. Il Milan sta facendo una buona fase difensiva, ma quando deve proporre qualcosa fa fatica. E tutte e due le squadre, se tu vai a vedere i numeri, preferiscono, l'Inter ha fatto più punti fuori casa, il Milan è una squadra che piace partire in contropiede, e quindi manca molto di personalità da tutte e due le parti, però da una parte c'è più coraggio, dall'altra un po' meno. Sì, anche forse un po' più di qualità, perché ieri al di là di tutto, più avanti, sì. Al di là di tutto, uno come Hernanes, ma dico un nome a caso, il Milan non ce l'ha. A me continua a convincere pochissimo Kovacic, il ragazzino lo rivedremo. Uno come Icardi, il Milan non ce l'ha, ma forse neanche uno come Palacio, quindi parliamo anche di però il Milan teoricamente avrebbe destro, e vabbè, siamo alla teoria, però Pier. Io non sono convinto che l'Inter sia più forte del Milan, che abbia più talento, e fra l'altro se fosse così vorrebbe dire che Inzaghi è andato meglio di Mancini, visto che il Milan ha un punto in più in classifica. Io penso che siano tutte e due sullo stesso livello e che abbiano tutte e due paghino tutte e due l'ansia, la prestazione di non essere all'altezza dei loro predecessori. Lo zio ha giocato tantissimi anni all'Inter e sa che San Siro, soprattutto in casa, mette timore, fa paura, e se non sei abbastanza bravo e se non riesci a farcela, questa paura può diventare un boomerang abbastanza clamoroso. Sulla partita di ieri sono d'accordissimo, cioè l'Inter meritava di vincerla, ci ha messo sicuramente più cuore, ha avuto anche degli episodi che non l'hanno aiutata, anche arbitrali, questo non, un po' pretestuoso parlare però di arbitri, sì, li abbiamo visti, però sai, in una partita in cui c'è stato dentro davvero poco. Poi nello specifico della partita poteva vincerlo, cioè secondo me gli episodi arbitrali hanno avuto un peso sulla partita. Detto questo, io onestamente, per fare un discorso alto, se fossi un tifoso dell'Inter o del Milan, non mi attaccherei in questo momento agli arbitri, perché ci siano altre cose ben più importanti. Però ecco, poi se guardiamo lo specifico della partita di ieri, sicuramente con una decisione diversa l'Inter la poteva portare a casa. Beppe, tu vedi un futuro per Milano, al di là della cornice di pubblico? Ieri prima ho detto a Pierluigi, c'era tutto, bellissimo, 75.000, solite belle coreografie, è mancata solo un dettaglio, la partita. Sì, ieri c'è stata anche una congiuntura favorevole, insomma, perché 15.000 spettatori, forse non erano tifosi né uno dell'altra, e quindi il Salone del Mobile da quel punto di vista ha aiutato. Però io quello che dicevo anche ieri a Sky, ma lo dico anche a voi due, anche agli spettatori, tu se senti le dichiarazioni sia dell'Inter che del Milan sono sempre improntate a un ottimismo. L'Inter dice il prossimo anno lotteremo per lo scudetto, Inzaghi dice torneremo grandi. Ecco, io non vedo questa cosa qua, non vedo le basi per poter fare questo. Poi certo ci sono degli esempi, una Juventus che arriva settima e l'anno dopo vince il campionato, però faccio fatica a intravedere questo progetto. E quindi, però ripeto, io penso diversamente da Pier, l'Inter un po' più di talento rispetto al Milan ce l'ha. Se sistema qualcosa dietro, ha un buon portiere, se riesce a mantenere i propri giocatori importanti, è una squadra che può ripartire. Il Milan faccio un po' più fatica a intravedere questo. Sì, anche per me la Juve può andare avanti altri 3-4 anni. Bravo, è quello che proprio io. Tranquilla, anche perché e tutto questo dici, vabbè, c'è l'offerta per Pogba. L'offerta per Pogba, se veramente è quell'offerta lì, significa che tu puoi andare poi col valigione a prenderne due o tre molto buoni. Quindi voglio dire, è proprio un meccanismo che si crea e che porta il più forte a essere sempre più forte da questo punto di vista. Senti, zio, volevo chiederti ancora una cosa. Ieri ho fatto questa considerazione anche con Collovati. A te è mai capitato di doverti inchinare davanti agli ultra? Che ti arringavano, ti chiedevano impegno, ti facevano discorsetto? No, io ho solo ricordo un episodio. Una volta sono venuti ad Appiano, forse nell'anno di Ottavio Bianchi, ma abbiamo avuto un incontro così, si è parlato, un confronto, come ha detto Zema, devono essere in due, no? Se ci deve essere un confronto, perché se parla uno solo non è un confronto, è l'unico episodio per cui mi ricordo. Certo, sì. Un po' di pressione, è finita la partita quando dovevo uscire dallo stadio, c'è stata in 20 anni di carriera, però così assolutamente no, non mi è mai capitato. Sai cosa ha detto oggi Ancelotti? Ha detto: quanto è successo a Cagliari, Roma e Varese è molto triste, sarebbe ora di tagliare un po', non se ne può più di giocatori che siano ostaggio di tifosi senza cervello. Qui la contestazione si limita solo ai fischi allo stadio, gli ultra, gli striscioni non esistono più. Il Real ha lavorato molto negli ultimi anni per eliminare le frange più violente del tifo e lo ha fatto. Poi è vero fino a un certo punto, perché abbiamo visto contestazioni sparute, ma anche a Real Madrid quest'anno. Però Ancelotti ha detto queste cose. No, ha ragione. Ha ragione, cioè dobbiamo partire da noi, dalle federazioni, dalle leghe, dai calciatori, dai presidenti, che secondo me devono prendere delle posizioni più decise verso quello che ha detto Pallotta, senza se e senza ma, perché continuiamo a dire sempre che sono piccoli gruppi, così, niente, invece dobbiamo andare dentro decisi. È arrivato il momento, perché quello che è successo uno dentro l'altro, certo. Roma, Varese, Cagliari... Ma è al ritmo di 2 settimane, Esatto, non è più tollerabile. Poi non so la ricetta quale può essere, però non si può più andare avanti così. Guarda, io pensavo ieri sera, mentre vedevo le bellissime coreografie del derby, pensavo proprio a questo, cioè pensavo al fatto che poi arriverà un giorno, che arriverà questo giorno, poi magari noi italiani ci mettiamo più tempo rispetto agli altri, ma arriverà il giorno in cui tutto questo finirà. E qui o tu trovi una soluzione di compromesso, nel senso che responsabilizzi le persone, riesci a punire i responsabili in maniera automatica, risparmiando invece gli innocenti, oppure arriverai a un certo punto a un provvedimento repressivo che di fatto cambierà completamente la struttura degli stati in Italia. Sarà un peccato per me sarà un peccato, perché ci perderemo quello che per esempio ieri sera si è visto di bellissimo con le due coreografie da una parte e dall'altra, e si vede pure a Roma, cioè il derby a Roma è meravigliosa l'attesa della coreografia, però evidentemente se non riusciamo a permettercelo, se non riusciamo ad avere l'intelligenza per riuscire a stare in quel tipo di mondo, in quel tipo di ambito, poi l'unica soluzione sarà chiudere le curve e fare lo spagnolo inglese. È vero, scusami, finisco. È vero, sono belle, però io e te giriamo gli stadi di tutto il mondo, ma quando vai a Liverpool, che senti l'inno del Liverpool e tirano fuori solamente le sciarpe, è una coreografia bellissima ed è da brividi, hai capito? Per farti capire che non è necessario fare determinate cose per creare un'atmosfera giusta da stadio e coinvolgente. D'accordissimo, zio. Questo sono d'accordo, però voglio dirti, secondo me se in Italia o in certi paesi latini c'è un tipo di struttura, un tipo di tradizione di questo tipo, per me non è necessariamente un male. È chiaro che poi di fronte a tutto quello che succede, insomma, poi alla fine il peso non... il gioco non vale la candela. E poi quando arriverà il primo governo che capirà che questa cosa qui sta diventando popolare, perché la gente non ne può più e troverà un po' più di coraggio per dare dei poteri un pochino più forti a chi dovrà intervenire, e poi a quel punto la soluzione sarà lo stadio, da questo punto di vista la repressione e lo stadio che diventa teatro, ma va bene. Poi su Liverpool, vabbè, tocchi un io debole, la mia passione per il calcio inglese. Se c'è un prezzo da pagare, alla fine varrà la pena di pagarlo. Grazie, zio. Grazie. È un piacere, un abbraccio a tutti due. Ciao. Piacere nostro, ovviamente, come sempre. Ci fermiamo per il traffico e poi ascoltatori 800 24 00 24. No, assolutamente, oggi volevo vincere, volevamo vincere, dispiace, abbiamo avuto tante occasioni, c'è stato negato il rigore solare, come mi hanno detto, mi dispiace perché in un derby questi errori non andrebbero fatti. Tutti convocati. Tutti convocati. A giocare col pubblico contro Garcia a Roma. No, ma non no. C'era Curva Sud questa sera, di che parliamo? Era sospeso da giudizia sportiva del calcio italiano, c'è niente da dire di più, concentriamoci adesso sull'Inter perché sarà facile fare una migliore gara. La curva era fuori, 3-400 con gli striscioni, pallotta maiale e altre amenità del genere. Che poi non è detto ci fosse stata, Pierre avrebbe avvantaggiato la Roma, magari sarebbero dovuti andare a fare solita scena anche ieri là sotto dopo il pareggio con l'Atalanta. Ho detto questo, però fammi dire, perché sennò poi dopo si fa tutto un fascio. Quello che è successo ieri a Roma chiaramente può non essere condivisibile, per me non è condivisibile assolutamente, però è stato qualcosa di in qualche modo di non violento, di civile, rispetto a ciò che è avvenuto evidentemente a Cagliari e ciò che è avvenuto a Varese. Quindi insomma, questa distinzione se va fatta, altrimenti poi buttiamo tutto in un calderone. Poi ci sono stati cori poco gradevoli sicuramente, insomma, si fa anche fatica secondo me a capire, soprattutto da fuori, il tipo di punto di vista, no? È chiaro che Pallotta ha iniziato un muro contro muro, una battaglia, e adesso bisognerà capire chi riuscirà a stargli vicino. Questo è l'aspetto più importante. Quel dato della Gazzetta molto banale dell'altro giorno, che dice che ha provato a sentire 19 società e 11 su 19 non hanno parlato, per carità, è quello che diceva Bergomi, ci sta pure uno non risponde alla telefonata di un giornalista, cioè oppure può essere pure un caso. Però ecco, adesso invece dal punto di vista dei fatti io mi aspetto che le istituzioni, anche perché ribadisco, secondo me oggi come oggi siamo arrivati a un punto in cui per un governo risolvere questo problema, sistemare questa cosa, diventa popolare. Cioè secondo me se da qui a due anni il governo o qualsivoglia politico riuscisse a mettere a posto le cose e a rendere più vivibile l'atmosfera negli stadi italiani, certo la cosa può costare all'inizio un po' di problemi, non è facile, c'è da aspettarsi qualche incidente di percorso e qualche problema, però poi alla fine secondo me il risultato anche in termini di consenso, che poi è l'unica cosa che interessa ai politici, ci sarebbe. Quindi io penso che sia una strada. Chiamo lor signori. Sì, a fare qualcosa, a fare qualcosa di importante, che sia diverso da quella cosa, secondo me, completamente sbagliata che è successa a Roma. Cioè a Roma alla fine hanno chiuso un intero settore, poi non si capiva se era tutto, se era un pezzetto, alla fine hanno chiuso soltanto una parte della curva. Insomma, sicuramente ci sono degli innocenti che ci sono andati di mezzo e magari c'è qualche colpevole che invece non ha pagato. Lillo, provincia di Imperia, buongiorno, come sta? Sì, grazie, buongiorno a voi e grazie per avermi concesso l'onore di parlare subito dopo. Esagerato. Dopo lo zio Bergomi, allora sì, allora va bene. Allora, no, anche dopo Fardo. Non scherziamo, non confondiamo, non confondiamo. Allora, San Lorenzo al Mare fra un mese sarà già partito il Giro d'Italia, volevo già precisare questo, che si parte da San Lorenzo al Mare e non già da Sanremo, così tanto per la precisione, la prima cronotappa, San Lorenzo, Sanremo, ecco, e quanto. E poi invece volevo parlare anche di calcio, un argomento che avete lanciato la settimana scorsa, scusate ma sto camminando, e in merito al discorso che facevate anche adesso dello stadio della capitale, no? Voi la settimana scorsa, anche 90 minuto, ieri sera ha lanciato un hashtag su cosa bisognerebbe fare in Italia per avere stadi più sicuri, di portare le famiglie e quant'altro. Io abbraccio la tesi che voi avete proposto la settimana scorsa, la proposta veramente del presidente della Ventis, di partire con la prima giornata all'estero. Sparpagliati in giro per il mondo. In questo modo, a parte che c'è uno stadio nella capitale che secondo me andrebbe chiuso, ma questo proprio per evitare che poi da qualche tempo si arrivi a quello che è successo in Grecia, forse anche in Turchia mi pare, dove hanno addirittura sospeso tanti mari. Per evitare questo, di arrivare a questo, trasferiamo un attimo una giornata negli stadi del mondo, in modo che questi tifosi che noi abbiamo qui in Italia... Sì. Io credo che sarebbe una bellissima mossa di marketing, ma certamente non qualcosa di risolutivo di alcun problema, sarebbe semplicemente una vetrina. No, è più una cosa, diciamo, dal punto di vista economico che può darci un ritorno, quindi da questo punto di vista, appunto, nel marketing, nel migliorare, rendere più appetibile e commerciare, parola brutta ma che ci sta in quest'epoca, in tutto il mondo l'immagine del calcio italiano e veicolarla, questo potrebbe essere veramente molto molto utile. Facciamoci vedere, insomma. Facciamoci vedere. È diverso, è però secondo me invece il discorso della violenza. Il discorso della violenza c'entra poco, bisogna trovare una convivenza, bisogna trovare una convivenza. O la si fa attraverso, diciamo, il dialogo e la responsabilizzazione di queste persone, ma questa cosa qui la puoi fare soltanto se sai che ci sono delle pene certe. Se sai che ci sono delle pene certe, altrimenti, ti ripeto, l'unica soluzione secondo me sarà poi, come spesso succede in Italia, improvvisamente la questione la si risolve sciogliendo proprio la possibilità di aggregazione, come è successo ad esempio in Inghilterra, insomma, di fatto, dove lo stadio è verissimo che la sua storia è molto bella, ma è cambiata come struttura rispetto a prima di Hillsborough, no? Che fu la tragedia che cambiò poi di fatto tutto l'approccio delle istituzioni inglesi. Ci vuole una mossa decisa, decisiva e magari creativa, perché altrimenti non continuiamo a parlarne e ogni volta che succede qualcosa ne riparliamo e poi continuiamo a dire che non siamo arrivati al punto più basso. Quante volte le abbiamo sentite queste frasi fatte? Alessandro da Brindisi, più basso di così non si può andare ed è ora di finirla. Alessandro da Brindisi, buongiorno. Buongiorno, signor Genta, complimenti per la trasmissione. Grazie. La seguo ogni giorno, mi fa compagnia ogni giorno che torno dal lavoro. Benissimo. Io volevo intervenire per quanto riguarda l'argomento della violenza negli stadi. La violenza negli stadi è facile da risolvere, non ci vuole genio e ogni volta fare una regola per ogni eccezionalità. Ogni volta che si prende questa gente si fa vedere che hanno sempre dei precedenti penali. Quindi questa gente non deve rompere le scatole e farli andare negli stadi, perché qui si parla sempre di diritti dei carcerati e dei diritti delle persone che ogni giorno lavorano onestamente, vogliono andare il fine settimana con la famiglia ad andarsi a vedere una partita allo stadio, non se ne può. Quindi questa gente, quando viene presa, deve essere lasciata in carcere, punto. Bisogna buttare la chiave. Sì. Questa è l'unica possibilità che abbiamo, se no si riparla ogni volta di queste situazioni. Sì, punto, ci vuole, secondo vabbè, me non... a patto di tutto corretto, l'abbiamo detto molte volte, ci vorrebbe certezza del diritto e della pena e tutto quanto. È chiaro che il tutto letto con equilibrio, perché così si fa in un paese civile. Sì, soprattutto letto nel rispetto delle norme che ci sono, perché esatto. Insomma non è che possiamo fare le leggi speciali, no. Però poi questo è un paese che certamente poi le leggi speciali le ha fatte, no? Cioè io quello che credo è che noi siamo come paese siamo molto emotivi, no? Uh-huh. Pensa a quello che è successo l'altro giorno fuori dal tribunale di Napoli, dove uh-huh. improvvisamente il giorno dopo quella terribile tragedia di Milano si è creata quella fila di chilometri, perché improvvisamente sono cambiati tutti, sì, per paura di un effetto emulazione, per carità, magari anche che ci può anche stare in un momento come questo che uno stia particolarmente attento, però è un po' come la cosa delle cinture di sicurezza, del casco. Uh-huh. Improvvisamente si crea la legge e tu stai per un mese, due mesi, tre mesi con un'attenzione mostruosa, oppure succede l'incidente e fai come la stalla ai buoi. La mia sensazione è che sia arrivato il momento, anche dal punto di vista proprio complessivo di clima nel paese, per risolvere definitivamente questo problema, perché sono tanti anni che va avanti. In 10 secondi, chi c'è stasera, Tiki Taka? Stasera c'è Ferrero che torna. Oh, grande. Poi c'è Mughini, poi c'è Dotto, poi c'è l'autorista Satta, Barra, Mosetti, Cruciani, signor Labate. E poi abbiamo i collegamenti con questa bella serata che si svolge a Milano. Tra l'altro è una serata dedicata a una bambina che è partita l'altro ieri per l'America per curare una grave malattia. Sì. Quindi anche una serata charity, nella quale ci sono giocatori di Milan, tutti Inter, collegati. Torino. Tutti collegati. Insomma, grazie Pier. Ciao. Abbraccio. E da una botta di vita a questa trasmissione. E noi la ringraziamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati, sempre convocati. 800240024, Domenico da Torino. Ciao. Ciao a tutti. Volevo fare una considerazione sul tema degli stadi. Io sono juventino e ho frequentato lo stadio della Juve dal primo anno di Conte fino a oggi, seppur quest'ultimo anno molto meno. Ho visto tutti i tipi di partite, dalle più tranquille alle più cosiddette a rischio come il derby o partite di Champions. E niente, la mia esperienza a distanza di ormai quasi 4 anni non mi ha mai messo in condizioni di trovarmi in situazioni di pericolo all'interno o fuori lo stadio o anche nelle vie della città. Quindi quando sento parlare, ecco, di degli stadi, della sicurezza, che bisogna sempre prendere a modello dagli altri, specie all'estero, io credo che, ecco, il caso di Torino, dello stadio della Juve, Domenico, è semplicemente uno stadio contemporaneo, cioè non è una cosa, è un'astronave precipitata in Italia, perché di questi esempi, lo sai anche tu, ne abbiamo tre, quello di Udine, quello di Reggio Emilia e quello della Juventus, stadi di proprietà. È semplicemente uno stadio moderno, con sistemi di controllo tecnologico sofisticati come accade in altri posti, ed è uno stadio, ripeto, contemporaneo del 2015, in cui si va a vedere lo sport. Quindi non mi sorprende punto quello che stai dicendo, l'ho provato anch'io. Poi non mi piace tanto la retorica de allo stadio devono tornare le famiglie, perché le famiglie allo stadio, ditemi voi quando ci potevano andare negli anni 70, 80, 90, sono cose che ho già detto molte volte ma continuo a ripeterle, quindi questa secondo me è banale retorica. Però il fatto di avere degli impianti, ripeto, normali per il 2015 sarebbe una cosa quantomeno dovuta, doverosa, sarebbe quantomeno una cosa normale. Ivano Monza, buongiorno. Sì, ciao, ciao Carlo. Ciao. Volevo parlare della nostra passione comune di Chimi. Sì, volentieri. Oltre a Valentino. Di Chimi volevo dire semplicemente una cosa, che i titoli oggi, no, dicono che è tornato Chimi, è tornato Raikkonen. Secondo me non era mai andato via. Secondo me semplicemente, diciamo che si seguono più le valutazioni e indicazioni di Alonso, che ultimamente era andato un po' nel pallone. Lui, Alonso, è sempre stato uno che anche con una macchina inferiore riusciva a tirar fuori dal cilindro il giro, sì, spettacolare, sì, certo, la gara particolare. Certo. Mentre Chimi aveva bisogno di una macchina che fosse più, diciamo, neutra, una macchina gentile con le gomme. Uh-huh. In effetti, quando lui era entrato in Formula 1 con la Lotus viaggiava perché l'aveva messa a punto in quest'ottica. Adesso che la Ferrari probabilmente ha seguito le sue indicazioni, ne trae vantaggio anche Fette di una macchina così bilanciata, di così gentile con le gomme. Secondo me. Secondo te. Non so cosa ne pensi. Guarda, te lo dico subito. E entra nel penultimo rettilineo Lewis Hamilton, lì in fondo sta preparando l'ultima curva per affrontare adesso il rettilineo del traguardo, per tornare sotto la bandiera a scacchi e concludere così ancora una volta un fantastico weekend, andandosi a prendere la vittoria numero 36 in carriera. Ma che gara! Kimi Raikkonen in seconda posizione, torna sul podio con la Ferrari, non l'aveva mai fatto lo scorso anno, lo fa al quarto tentativo nel corso di questa stagione. Grande gara per la Ferrari con Kimi Raikkonen. Ok, fantastic job Kimi, fantastic job, really close in the end, good racing. Hey Ashman, you were great, I'm proud of you, grande Kimi. Avrei voluto vedere due piloti sul podio oggi, ma guarda, sono contento per Kimi perché lo merita, è un mastino allucinante in gara, guarda, sono contentissimo, vado là perché me lo voglio godere. E questo l'avrete riconosciuto, Maurizio arriva bene ormai, voce notissima. Poi c'è chi arriva bello bello come Andrea, scrive: ma di Valentino ne parliamo, di Valentino ne abbiamo parlato, Andrea, sì, puntuale all'appuntamento dopo le 14, prima c'erano Paolo Beltrame e Graziano Rossi ed è stato divertente. Invece di chi mi parliamo adesso con il mio più caro amico Leo Turrini. Ciao Leo. Buongiorno maestro Gita, come andiamo? Andiamo molto bene, io direi. Sei riuscito a trovare Graziano Rossi? Sì, l'ho incontrato telefonicamente, abbiamo parlato tantissimo di te, mi ha detto delle cose bellissime sul figlio, specificando che il merito di questo DNA straordinario non è suo ma della mamma, quindi sì, siamo tolti un problema che è il merito della signora. Detto questo, devo farti una domanda, caro Gita, poi ti darò le notizie sul traffico. Sì? Dimmi, da quale posto è partito Raikkonen ieri sulla griglia di partenza? è partito dal famoso laghetto della, dello spot di quella casa. Di... Però era sulla griglia dopo Hamilton, Vettel, Rosberg, quindi era quarto. Quarto, quindi Kimi come Garibaldi è partito da quarto ed è sbarcato nel regno delle due Mercedes. Ora io voglio dire, amici che ascoltate, gente, il Dostoevsky della radio, ma da quanto tempo aspettavamo questa soddisfazione? Noi che abbiamo sempre creduto nel santo bevitore, ma certo, in questo biondino venuto dal nord, vituperato, vilipeso, devo dire in una maniera assolutamente penosa, perché c'è tanta gente nell'ambiente della Formula 1, io mi permetto di dirlo perché siamo su Radio 24, che come dice Barisoni a proposito dell'economia, focus economia, c'è tanta gente che non capisce nulla di automobilismo. Per Kimi Raikkonen è un grande campione, è certo, l'ultimo irritato al volante di una rossa, certo, ieri ha fatto capire, credo, anche a chi si rifiuta di accettare la realtà, che il suo talento non è assolutamente calato attraverso il tempo. Perché, chiedimi caro Genta, perché non è calato questo talento? Fammi la domanda. Perché non è calato questo talento? Perché Raikkonen è il più bravo di tutti a guidare sulle uova, come diceva James Allison, che era già suo direttore più bravo tecnico anche di alla Lotus. Sulle uova significa quando devi far rendere al massimo un tipo di gomma che non è in assoluto la più performante. Lui faceva questo quando era rientrato con la Lotus. Era bravissimo nel ragionare, nel gestire l'usura pneumatica. Ieri, quando aveva la gomma più dura, faceva gli stessi tempi di Hamilton con la gomma più tenera. Sì. Quindi qui siamo di fronte, ribadisco, come nel caso di Valentino Rossi, che è tutto merito della mamma e il nostro amico Graziano non ha nessun titolo da rivendicare al riguardo, siamo di fronte veramente a un talento naturale, a una cosa di DNA. E questa Ferrari ci ha veramente rallegrato con un secondo posto, come posso dire, insomma, garibaldino. Però ci sono le notizie sul traffico. Attenzione, se siete sulla Pero Cormano, c'è un rallentamento dovuto a un signore che sta facendo l'autostop. Chiedimi chi sta facendo l'autostop sulla Pero Cormano, caro Genta. Chi sta facendo l'autostop sulla Pero Cormano? Fernando Alonso, perché ma poverino, ma dai, aspetta, aspetta, spera che si fermi Paola Saluzzi. E tu dirai, per quale motivo Alonso spera che si fermi? Vabbè, lo Paola sappiamo, Saluzzi? Per fare la pace, per, no? No, perché vuole sposarla. È perché Alonso vuole sposare la nostra cara amica Saluzzi, che salutiamo di Sky TG24, perché sposando la Saluzzi, quello è l'unico modo per lui di riavere una rossa. Ora, ora tu capisci che siamo di fronte a qualche cosa di straordinario. Però, in attesa di sapere se questa, chiamiamola così, insomma, love story, avrà un epilogo, avrà benissimo, un buon epilogo. Diciamo però che ieri Alonso mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto, perché purtroppo per lui la McLaren Honda è una carriola, ma si è rivisto l'orgoglio, certo, del ma lui campione. Ma lui è uno che la capacità di soffrire ce l'ha sempre avuta, ha sofferto le pene dell'inferno. Cioè, è uno che sa soffrire. A me è piaciuto, non è arrivato in zona punti perché purtroppo la macchina è quella che è, Button nemmeno è riuscito a partire, però insomma abbiamo visto che Alonso è sempre Alonso. E poi guarda, a me piacciono anche queste cose che fanno molto, voglio dire, racconto romantico, no? Quando ha preteso di sdoppiarsi su Raikkonen, sì, no? Sì, sì, ecco, sì, io lì ho visto proprio l'istinto del fuoriclasse che dice, beh, non vale niente perché comunque arriverò undicesimo, dodicesimo, ma è una soddisfazione che mi posso togliere, e se l'è presa. Queste sono le belle piccole storie che fanno grande l'automobilismo, e mi fa piacere segnalarla, pur essendo io un ferrarista di rito raikkoniano. Dopodiché non so se la Saluzzi accetterà di caricare questo autostoppista asturiano sulla Pero Cormano, ma se siete rallentati avete capito che il motivo è questo. Che motivo è questo? Intanto comunque la notizia è che prima parte di gara in cui il re del deserto, vabbè, ha fatto il vuoto, eccetera, eccetera. Ma insomma, il vuoto. Beh, a metà gara, poi Vettel era 5 secondi, esatto, e mezzo. A metà gara. Poi quel vuoto ha cominciato a diventare un po' più piccolo, e alla fine la notizia è che c'è stato il sorpasso del santo bevitore sul morbidone Rosberg. Insomma, sai, Rosberg io ho già detto forse anche con te, che sei il mio maestro, il mio idolo, il mio mito, dovrebbe passare all'ufficio anagrafe e chiedere una modifica del cognome. Rosberg non va più bene, dovrebbe farsi chiamare Rosberger, no? Da Gerhard Berger, che era un grandissimo vitellone, anzi questa te la racconto, quando Berger era la Ferrari, suo secondo periodo, no? Sì. Allora si potevano fare i test in pista eccetera, Fiorano aveva appuntamento in pista, Fiorano alle 10 della mattina, perché doveva collaudare non si sa quali particolari, ed era in macchina, veniva da non si sa dove. Sì. Fatto sta che scendendo dal Brennero a un autogrill, credo in zona Egna ora, sì, aveva incontrato una gnoccona da paura, no? Insomma, queste cose che alla radio non si possono dire perché siamo in fascia protetta, no? E arrivò il giorno dopo, hai capito? Ma questo era Gerhard Berger, che era un personaggio fantastico, uno che aveva una carica ormonale devastante, però effettivamente poi... Figlio di che non mi sembra di questa parte. No, ma voglio dire, a confronto con i top, Berger era un gregario di lusso. Quando sì, è stato con Senna, no? Sì, sì, gli ha portato certo la valigia per tre anni. Ecco, io temo nel caso di Nico, così torniamo alla tua domanda, che a Rosberger stia succedendo la stessa cosa. Guarda, che io non sono di principio contrario ai gregari di lusso in Formula 1. No, nemmeno io. Basta sapere come stanno le cose. Sì, no? Però lui, almeno per la prima metà della passata stagione, si era fatto l'idea a suon di risultati, perché se tu prendi i dati del 2014... il non ancora Rosberg era fatto più pole di Hamilton, eh? Sì, sì. Si era fatto l'idea, questo figlio d'arte, di potersela giocare col nero alla pari. Adesso siamo in presenza di una situazione invece nella quale Hamilton ha vinto 9 degli ultimi 11 Gran Premi, è un martello, perché quest'anno tutte le pole position sono sue, non sbaglia mai, e quindi il povero Nico secondo me sta subendo un processo di barrichellizzazione. Ti ricordi Barrichello? Sì. Barrichello era un piagnone, era sempre bloccato in coda lì sulla Salerno-Reggio Calabria, no? E diceva sempre che era colpa, a proposito dell'artista del traffico, di Todd, di Schumacher, sì, della Rava, della Fava, semplicemente andava più piano. Quindi io voglio dire questo. La sindrome Rosberg, di Petrosa, no? Bravo, cioè, Rosberg va più piano di Hamilton. Prendiamone atto. Ora tocca a Raikkonen e Vettel andare più forte del nero, dare scacco matto al nero. Qui servirà la mossa del cavallo, caro gente. Dimmi che tu questo, ma si io mi sono appassionato di scherzo, non so giocare, non so muovere un... No, io so distinguere una torre da un torrone. Se le partite lampo sei veramente fortissimo, mi hanno detto che tra te Barisoni, via Fox, sì, economia, lui muove l'alfiere, tu rispondi con una mossa della sì, torre, insomma, grosse cose. E io butto per aria tutto. No, più che altro... La Ferrari dopo ieri è ancora un pezzettino più vicina al principe del deserto, al più forte di tutti, a Lewis sì, Hamilton, allora, nonostante io... la gara un po' così del mostruoso tedeschino. Guarda, allora, Fettel, caro Genta, io credo che siamo a un momento decisivo e tu mi dirai perché fai questa affermazione che sembri D'Artagnan quando incontra la gli emissari di Richelieu nel supermercato della Parigi antica. Perché adesso c'è una pausa di 3 settimane in Formula 1 e questo significa che quando si tornerà in pista a Barcellona la seconda domenica di maggio, tutte le squadre avranno l'opportunità di presentare gli aggiornamenti, diciamo così, delle vetture. Ora, sono anni che la Ferrari, ogni qualvolta si cominciava a ragionare in termini di sviluppi della monoposto, insomma, era come la Grecia di Tsipras, hai capito? Ma sì, qui dobbiamo pagare, non dobbiamo pagare, scade un cazzo, queste cose qui, insomma, finivano sempre in default, ecco, così ci siamo capiti, come direbbe Barisoni. Allora, stavolta speriamo che tra Iron Mauri arriva bene, tu sai che io sono il mogol di arriva bene, no? I testi li scrivo io. Li scrivi tu, eh? Sì, beh, quella lì, sono fuori come un balcone, se dicessi che vinciavo il mondiale gliel'ho scritta io, insomma, sono frasi tipo i giardini di Marsa, hai capito, queste cose qui, la collina dei ciliegi, le studiamo insieme a tavola. Ecco, se con la gestione di arriva bene, e questo James Allison, il direttore tecnico, che è un britannico ma che sembra nato a Fiorano, parla benissimo il dialetto modenese e si commuove quando la Ferrari va forte, se con questa nuova struttura gestionale si azzeccano gli interventi sulla vettura, allora ci si può divertire molto, sì, sì. Anche perché Vettel non sempre andrà male come ieri, eh. Ieri non abbiamo visto il miglior Seb, onestamente, no. Ha fatto due o tre errori, forse è stata la prima volta da quando è vestito di rosso che Vettel non ha guidato da Vettel, perché non è da lui partire dalla prima fila arrivare quinto. Ma se riusciamo un pelo a migliorare la macchina, se Alonso sposa la salute, se Raikkonen continua, appunto Garibaldi partito da quarto arrivato nel regno dei due Mercedes, io ti dico che potremmo avere un'estate ruggente. Tu però d'estate non vai in onda, quindi io lo so. Come? Io te l'ha detto, non vado in onda. Io sono sempre tu di solito il 30 di giugno stacchi e vai via a parte i Caraibi. Ma chi te l'ha detto? Ti ha raggiunto il Briatore. Voi ma siete, chi te l'ha detto? Voi siete la crema un po', sì, così, insomma. Sì, sì, sì. Fate bene, beati voi che ve lo potete permettere. Sono sempre qui, le autorrini. So che non sei, mi porti da nessuna parte. So che sei amico della sorella della Gregoracci, non mai mai dati i numeri di telefono. Siamo così. Vabbè, lo so. Lo so, so tutto, vabbè, voi potete permetterlo. Quindi, insomma, non è detto, se la Ferrari riesce a migliorare un filo, e ci siamo. Secondo me, beh sì, avremo delle gran belle battaglie in stile Valentino Marti. Come ecco, si dice dalle mie parti, andiamo a mettergli il sale sulla coda, Leo Turini. Eh beh sì, comunque sai, se gli si mette pressione, hai visto ieri Rosberg, certo, alla fine, sì, saranno stati freni, però insomma, è perché li aveva dovuti consumare, perché Raikkonen stava arrivando a palla di cannone, certo, come le camicie rosse a Calatafimi, tu capisci, no? Questo Raikkonen Garibaldi che ci ha regalato uno squarcio di entusiasmo, insomma. Noi siamo pronti, fra un po' ci chiederemo, è più facile il triplete della Juve o il mondiale della Ferrari? Chi l'avrebbe mai detto? Bella domanda. Ci puoi fare qualche puntata sopra, convoca Pardo. Dove è finito Pardo? Pardo deve fare la vara di chitarra. Glielo chiedo domani, Leo. Grazie. Ah, bene, salutamelo. Grazie a voi. Ciao, Leo Turrini. Avete la fortuna di ascoltare Carlo Gente, il Dostoevskij della radio. Grazie. Ciao, Leo. Un abbraccio. Ciao. Mauro Torino, buongiorno. Buongiorno, velocemente. Senta, un piccolo appunto, per sapere cosa ne pensi, prima grazie per la convocazione. Cosa ne pensi degli opinionisti, nello specifico di Mediaset? Ieri sera sentivo Sacchi e Pistocchi, sì, cioè hanno Inzaghi davanti. Ora, secondo me l'opinionista, è come in questo caso, io dico il mio parere, ma lo dico, come fa uno come Sacchi o come Pistocchi a dire a Inzaghi, ce l'hai davanti, invece che dirgli, ma tu, ma che cavolo di modulo usi? Uno che mette Menez falso 9, quindi mai oltre la metà se non quando parte da solo, e che mette in panchina destro Pazzini e Cerci, invece che dire spiegami che modulo hai, come fa Antonelli e Abate a fare cross, ma chi li fa? No, sai cosa gli ha detto? No, perché non ho visto, visto Sacchi gli ha detto a Inzaghi, che aveva la bella fortuna di averlo davanti, gli chiede dimmi cosa ti è piaciuto e cosa non della tua squadra. Cioè, ma questo è il modo di fare opinione numero uno. E no, poi volevo chiederti una cosa. Cosa vuoi che ti dica io però? No, io posso prendere atto. È chiaro che sono delle idee di Paro secondo cui l'intervistato cerchi di mettere a suo agio, però se gli devi dire le cose gliele dici, come fa ogni volta Boban, come fa Massimo Mauro, come fanno altri opinionisti. Insomma, è chiaro che per fare domande banali sono buoni tutti. Poi? Pistocchi, cuor di leone, appena Inzaghi è andato via dal collegamento ha detto eh sì, però Inzaghi ancora, ed è una. Poi cosa ne pensi del fatto che io sono molto juventino? Ho impressione che Chiellini, come diceva una volta il vecchio Lenio Herrera, un difensore centrale importante non può avere un piede solo. Ho rivisto mille volte il filmato Juventus-Lazio, due occasioni da Lazio, tutte e due per una sbucciatina di Chiellini col mancino. Non pensi che abbia fatto il suo tempo ormai lì in mezzo da comprare uno come Miranda? Però se andiamo in guerra... Se andiamo in guerra, Chiellini ce lo portiamo insieme a Vidal. Ecco, però... vedi questo discorso. No, allora, Chiellini è stato a lungo un giocatore un po' sopravvalutato. Non dimentichiamo che forse le sue cose migliori, le sue stagioni migliori le ha fatte quando giocava sulla fascia sinistra, che le sue competenze poteva usare il suo piede. Però se ha una certezza vicino, che fino all'anno scorso era Barzagli, adesso è un Bonucci che secondo me è diventato un super centrale, ecco che anche Chiellini può permettersi qualche licenza poetica, mettiamola così. Perché? Perché poi c'è chi riesce a coprire il buco. Fabrizio Terni, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Volevo parlare del discorso degli stadi. Secondo me continuano a far fare le leggi a della gente che una partita non l'ha mai vista. Mi riferisco per esempio, che ne so, al Daspo di gruppo, perché se io sono in un pullman e sto leggendo il Vangelo e un pazzo tira un sasso, mi fanno stare a casa anche a me non so per quanto tempo, quindi non lo trovo giusto. Non trovo giusto che si chiudano le curve, perché magari io faccio un abbonamento, te lo pago in anticipo, te mi chiudi la curva e io quella partita a me non me la rimborsa nessuno. E non trovo nemmeno giusto il fatto che continuano a perquisirci allo stadio, a togliermi l'accendino. Però Fabrizio, fammi fare una domanda rapidissima, sì. che devo chiudere. Sì. Se ti chiudono la curva, tu te la prendi con il presidente che non fa ricorso o con chi ha fatto casino? No, me la prendo con chi ha fatto casino, ma non si può, però scusami, non si può scaricare la colpa. Prendiamo l'esempio della curva della Roma, tanto parliamo di quello, no? Non lo so, saranno 10.000 persone, ok? Non si può pretendere che chi non mette quegli striscioni vada lì da quelli a dirgli: oh, ma cosa stai mettendo lo striscione? Perché quello non ce la fanno la polizia, i carabinieri a stargli dietro, ce la devo fare io che vado a vedere la partita una volta. Sì, no, ma guarda, comunque tagliamo la testa al toro dicendo che ci vuole responsabilità individuale, ma soprattutto ci vuole meno connivenza da parte di chi pilota sti piroscafi della Serie A, cioè dei presidenti. Ci vuole più coraggio nel favorire anche l'applicazione di una responsabilità individuale, cosa che ancora non riusciamo a vedere, almeno nella maggior parte dei casi. Renato da Torino, ci sentiamo domani, mi spiace, devo chiudere qui. Grazie a Daniele Buonamici e a Sandro Marco Turni in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Ciao a tutti.